Va bene. Come comincio? Come si comincia? Quando ci si accorge che è cominciato. De Bortoli. De Bortoli è stato il primo. De Bortoli quella mattina aveva le scarpe aperte, vecchie, rovinate, aperte davanti, che come fa uno a uscire di casa con quelle scarpe? E quando qualcuno chi era? Qualcuno gli ha detto: De Bortoli, hai le scarpe che hanno fame, non sentivo quell'espressione da... E che fa De Bortoli? Si siede. Si siede su quella panchetta che sta in corridoio, che mi sono sempre chiesto, ma che ci sta a fare? Una panchetta lì in una zona di passaggio. Ecco cosa ci stava a fare. Aspettava De Bortoli con le scarpe rotte. 20 anni di panchetta in attesa. Potrebbero intitolargliela quella panchetta, come fanno in certe città con le panchine e mattoni delle chiese. Potrebbe diventare una regola, una specie di liquidazione morale. La panchina De Bortoli, la macchina del caffè la intitoliamo a Frascolla, il lampadario ad Aurum, no, il lampadario ad Aurum forse non è il caso con quello che ha fatto. Comunque, in questo registro ci sono tutti, da De Bortoli all'ultimo di solo 2 settimane fa. De Bortoli aveva 58 anni, era quasi arrivata alla pensione. Ma come sperava che l'avrebbero preso sul serio? Però il biglietto che ha lasciato funzionava. Mi avete fatto sentire inutile. Alla mia età non si può ricominciare. Alla mia età si può solo finire. Non male, De Bortoli. Non male. Però 58 anni. E poi che vuol dire inutile? Con quello che hanno fatto a me? È rimasto su quella stupida panchetta tutto il giorno. E poi si è buttato dalla finestra. Seduto per ore! Quando non sono ancora fantasmi, ma non sono più tra noi. Alle 5, con tutta la gente che usciva dall'ufficio. Vecchio scemo. Con il rischio di fare male a qualcuno. Però il giorno dopo i giornali non hanno detto quasi niente. Nessuno che avesse notato che buttarsi giù a quell'ora era pericoloso, dico, per gli altri. L'articolo più lungo, una manciata di parole per De Bortoli, dipendente di Transcom. Me l'ha fatto notare Luisa. Lei De Bortoli lo conosceva meglio di me. Era stata alla divisione commerciale con lui prima di essere spostata qui da noi e poi nell'ultimo periodo all'archivio. Guarda, questo è l'articolo più lungo, mi fa. Qui invece hanno sbagliato il nome, vedi? Hanno scritto Di Bortoli. Questo è il più breve. Li aveva ritagliati tutti. Quando sono entrato in Transcom, lui è stato il primo a presentarsi, a chiedervi se potevamo darci del tuo, a farmi vedere dove è la macchinetta del caffè e a offrirmene uno dicendo che però sapeva un po' di plastica. La divisione commerciale allora stava al 12° piano. Dalla finestra in fondo al corridoio si vedeva il parco. Il primo collega con il primo caffè, il primo giorno di lavoro. Secondo me è stata la prima volta che De Bortoli è arrivato primo in qualcosa. No, beh, in effetti lui è stato anche il primo a farlo, anche se nessuno ha capito che era il primo. Invece Renzetti è sparito. Non è che Renzetti fosse uno che si faceva tanto notare, sempre silenzioso, dietro la sua scrivania, niente confidenze con nessuno. A malapena me lo ricordo. Ma se uno così è, sparisci, non se ne accorge nessuno, no? Finito in quel vicolo con la gola tagliata. Beh, per qualche giorno tutti hanno pensato a una rapina. Ma che si fa così? Poi, sconcertante esito della perizia del medico legale. Si tratta di suicidio. Tagliarsi la gola. Però almeno i giornali ne hanno parlato un po', addirittura la foto. Renzetti, ma se eri un tipo così fantasioso, perché sei stato 10 anni zitto? Chissà quanto ci hai pensato, chissà quante idee avevi. Potevamo parlarne? Ma no, perché tu pensi di essere circondato da persone tristi, mediocri, no? Piatta umanità senza idee. Invece chi hai avuto vicino per anni? Renzetti che si suicida tagliandosi la gola. Sorprendente. Chissà quanti Renzetti ci perdiamo ogni giorno. Forse l'ha fatto solo perché ci hanno sigillato tutte le finestre. Messa in sicurezza del palazzo, così l'hanno chiamata. Un giorno sono arrivati gli operai e hanno sigillato le finestre per evitare incidenti. Così hanno detto. Che idea originale. Peccato che non erano stati incidenti. 4 voli, 4 biglietti. De Bortoli, Lundari, Mattini, Nichetti. Si sono buttati giù in ordine alfabetico. Beh, comunque, De Bortoli ha fatto scuola, bisogna ammetterlo. Il biglietto scritto a mano lasciato sotto la finestra dell'ufficio è diventato un must. Da lì tutta una serie di biglietti pensati, circostanziati, senza un errore. Lundari Stefania. Cosa poteva fare di più? Senza eccessi, precisa. Era anche un bel tipo. Perfino in carriera, si sarebbe detto. Viveva da sola con un gatto e un coniglio. Lundari Stefania ha spedito questa mail al padre 10 minuti prima di buttarsi di sotto. Buonasera papà, quando ti ho chiamato questa mattina mi hai detto che non ti sembrava in forma. Hai ragione, le mie pulsioni suicide sono tornate. Ho deciso di farlo questa sera. È inutile avvisare il proprietario perché metterò fine ai miei giorni al lavoro. Il mio capo non lo sa, ma sarò la 23esima impiegata a suicidarsi. Non accetto la nuova riorganizzazione del servizio. Cambio capo e per avere quel che sto per avere è meglio morire. Lascio la mia borsa con portatile e chiavi in ufficio. Porto con me la carta di donatrice d'organi, non si sa mai. A parte questo, non dimenticare di andare a prendere Zibo e Frimo per dare loro da mangiare. Mi dispiace che tu debba ricevere questo genere di messaggi, ma sono più che persa. Ti voglio bene, papà Stefania. Micidiale. Non si poteva fare di meglio. Addirittura il ti voglio bene, papà finale, un vero colpo d'artista. Su internet la sua lettera ha imperversato per quasi 2 settimane. Poi non è successo più nulla. Non so nemmeno se sono riusciti a usare i suoi organi. Povera ragazza, sembrava tenerci così tanto. Si è portata la testa appresso. Forse per questo Mattini non ci ha nemmeno provato. Dopo la lettera di Stefano al padre era difficile fare di meglio. E infatti lui è stato asciutto e sintetico. Scusatemi tutti, non riesco ad andare avanti così. L'hanno scusato subito e l'hanno seppellito. Neanche uno che si è chiesto ma così come? Forse la moglie, sì, forse lo sapeva cosa voleva dire così. Lo sapeva, ma non l'ha detta a nessuno. Si sarà vergognata. Perché è così che riescono a seppellirti senza fastidio, perché gli amici, i familiari spesso si vergognano. Un fastidio, un senso di disagio aiutano la rimozione. Quando qualcuno muore, quanti anni aveva? Era malato? Con quello che mangiava, fumava, beveva. È normale che sia finito così, alla sua età poi. È normale in questo caso significa non è normale, cioè è normale per lui, ma a me certo non succederà. È fantastico. L'unico modo che abbiamo per sopravvivere all'idea della morte è pensare che sopravviveremo alla morte. Figurarsi se ci facciamo impressionare da un suicidio che davvero a noi non capiterà di commettere. Anche se magari in molti, almeno una volta nella vita, quando ci si rende conto che il pensiero della morte ci reclamerà finché non l'avremo accontentato. Nel mio caso la possibilità era usare il sangue senza morire, usare il sangue contro il neon. Non sono morto. Era questa la mia possibilità, non lo sapevo. Anzi, ero convinto che sarei morto. Anche su queste cose ci si sbaglia. Credevo anche che mi avrebbe fatto molto male, invece no, non troppo. Quando si sta per morire non fa male, fa male dopo, se non muori. Se non muori fa malissimo. Il dottore sull'ambulanza insisteva con le domande, domande di tutti i tipi, per farmi parlare, per distrarmi, credo. Voleva che parlassi di qualsiasi cosa, mi racconti qualcosa di bello, forza, sto male, brucia tutto, non mi viene in mente niente di bello. Voglio solo chiudere gli occhi, mi guardi invece, mi guardi, li apra. Non ricordo niente, mi racconti qualcosa, qualsiasi cosa, è cominciato tutto con il neon. Con il neon e con la busta sulla mia scrivania. Una busta giallina, almeno così mi sembrava. Dentro c'era un foglietto con cui mi comunicavano che avrei dovuto smettere di fare quello che so fare. Ho messo in tasca la busta e ho cercato di non pensarci. Quando sono uscito dall'ufficio l'ho ritirata fuori, forse mi illudevo che il biglietto sarebbe sparito, e invece era sempre lì e diceva sempre che avrei dovuto smettere di fare il lavoro che so fare. Però la busta adesso era bianca. Non ci avevo mai fatto caso, ma la luce al neon dei nostri uffici rende tutto giallognolo e piatto. Un ufficio vuoto, pieno di gente anonima che non mi vede. Camminano, siedono, parlottano tra di loro e non mi vedono. Tutto quel neon nei corridoi, quella luce così fastidiosa in quel deserto. Sotto quella luce non può esistere nulla. Solo quelle buste che appaiono, maledette, appaiono dal nulla, con il mio nome scritto sopra, sopra la mia scrivania, ordini di servizio. Le comunichiamo il cambio di mansione. Ma chi sei? Dove sei? Perché non ti vedo? Chi le porta? Da dove vengono? Dove sei? Cambio di mansione. Ancora. Sempre peggio. Chi sei? Che vuoi rovinarmi? Fatti vedere, almeno fatti vedere! Niente, niente, niente. Faccio fatica a muovermi nei corridoi tra le persone che non mi vedono, e anche io vedo sempre meno loro. Credo che la luce al neon mi stia accecando piano piano. Vogliono che io smetta di vedere. Non credevo che sarei sopravvissuto. Ma cos'altro potevo fare? Qualsiasi cosa sarebbe stato meglio che trovare ancora una volta la busta sulla mia scrivania. Ora mi chiedono come mi sia venuta in mente, ma io credevo che fosse l'unica cosa logica da fare. Ne ero convinto. Quando ho preso la parola durante la riunione che avrebbe reso effettivo l'ordine di servizio, e davanti a tutti ho infilato la lama nello stomaco, liberando il sangue. La lama si è scaldata tagliandomi le viscere. Il sangue era rosso, finalmente rosso. Stava funzionando, dovevo solo spingerla dentro. E l'incubo si è finalmente frantumato come un cristallo esploso. L'unica soluzione. Mi vedono adesso e mi tolgono il coltello di mano. Il sangue mi bagna i vestiti. La realtà comincia ad essere. Nel dolore della ferita, nel sangue che sporca le mani di chi ora finalmente cerca di aiutarmi. Mi vedono, mi parlano. Nessuno metterà mai più buste sulla mia scrivania segnandomi lavori idioti. Sono un ingegnere, per Dio.